24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, eccoci di nuovo qui con 24 mattino ed eccoci a parlare come di consueto a quest'ora di economia. Soldi e dintorni. E allora Deborah Rosciani. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un tema che ho già annunciato, molto caro, le bollette luce gas. So che i nostri ascoltatori, anzi ho detto di prendere appunti, perché oggi esatto, ma tu te la sei portata la bolletta come ti ho chiesto ieri, perché oggi volevo farti il preventivo. Fino a questo punto no, però ho invitato tutti carta e penna, prendete appunti, perché oggi parliamo di confronto tra tariffe sul mercato. Esatto. E dunque, insomma, è un'iniziativa molto interessante. I consumatori sono pronti ad ascoltarti. Ti ho sentito prima che richiamavi all'ordine, bravo. Allora, dal luglio del 2007 c'è stata la liberalizzazione del mercato dell'energia e da qualche tempo i consumatori italiani possono cambiare fornitore di luce e gas in maniera teoricamente semplice. Questa è stata però una rivoluzione piuttosto silenziosa nel nostro paese, in primo luogo perché gli operatori, fornitori, distributori hanno preparato con calma le nuove offerte commerciali e anche perché per i consumatori non è facile stabilire in base alle proprie caratteristiche di consumo qual è la migliore offerta sul mercato, quella che fa al caso proprio. Allora ci ha pensato l'autorità dell'energia e del gas a predisporre uno strumento per mettere a confronto le offerte e quindi individuare possibilmente quella che va bene per noi e per la nostra famiglia. Il nuovo servizio è online, si chiama Trova Offerte, è stato lanciato la scorsa settimana dall'autorità appunto per l'energia elettrica e il gas ed era stato, lo ricordo perché ne eravamo stati anche piuttosto contenti, preannunciato proprio questo nuovo servizio ai microfoni di Salva Danaio dal presidente dell'autorità Alessandro Ortis. Come funziona, in cosa consiste questo nuovo strumento? Stamattina ce lo spiega Alberto Grossi, che è il direttore dell'area consumatori e qualità del servizio dell'autorità del gas e dell'energia. Dottor Grossi, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti. Allora, io in realtà ieri volevo farmi un preventivo, ovviamente ho lasciato la bolletta a casa per cui non ho potuto farlo, ma teoricamente tutti quanti dovremmo avere un'idea di massima di quanto consumiamo ogni anno. Bastano poche informazioni da inserire nel Trova Offerte per avere così poi il quadro delle migliori offerte per noi. Come funziona il Trova Offerte, dottor Grossi? La partenza viene dal sito dell'autorità, che è www.autorita.energia.it. Lì si trova un pulsante che è individuato con la sigla Trova Offerte. Entrando, il consumatore deve digitare innanzitutto il codice di avviamento postale della località che gli interessa, che potrebbe essere il comune dove risiede, dove ha la sua fornitura per l'abitazione principale, oppure il comune dove ha un'altra fornitura, penso a una seconda casa oppure ad un'altra abitazione. Allora, imputa il codice di avviamento postale. Poi la seconda domanda che gli viene rivolta è il consumo annuo di energia elettrica in kilowattora. Come diceva giustamente, lo si può trovare sulla propria bolletta se stiamo vedendo il consumo della nostra abitazione, oppure avere anche un'idea, e qui suggerirei magari di fare uno o due tentativi ulteriori, oltre quello dove viene indicato il consumo dell'ultimo anno, per vedere come andrebbe la spesa annua prevista aumentando o diminuendo leggermente il consumo. Certo, ammettiamo per esempio di dover cambiare casa prossimamente, magari di andare ad abitare in una casa più piccola o più grande, questo teoricamente dovrebbe cambiare le nostre abitudini di consumo, ma questa è solo una delle tante ipotesi possibili, certo. Sì, oppure anche introducendo una nuova modalità di comportamento, più attento al risparmio energetico, che quindi può ridurre il consumo, questo può essere un elemento anche di giudizio. Ecco, il Trova Offerte, a partire da questi elementi e poi dalla tipologia di contratto a cui è interessato il consumatore, e nella seconda schermata infatti il Trova Offerte pone la domanda se si vuole un'offerta a prezzo fisso oppure indicizzata all'autorità, che vuol dire a sconto rispetto alle condizioni di fornitura fissate dall'autorità, oppure un'altra offerta basata su ulteriori indici. Allora, qua il consumatore ha la possibilità di mettere il flag su tutte e tre le opzioni, e io questo lo suggerisco perché in questa maniera il Trova Offerte rende visibile la maggiore gamma possibile di offerte. Cosa vuol dire mettere un flag sulle opzioni, dottor Grossi? Per essere chiari con i nostri ascoltatori, cosa significa mettere un flag sulle opzioni? Significa che ci sono tre indicazioni, come dicevo, cioè a prezzo fisso, indicizzato a Egeo o altra indicizzazione, e uno deve andare col mouse del computer, cliccare in corrispondenza di ciascuna di queste tre. Se clicca su tutte e tre queste tipologie di offerte, il Trova Offerte presenterà tutte le offerte presenti. Se invece io sono, per esempio, interessato solo ad un'offerta a prezzo fisso, cliccherò solo a prezzo fisso. E se, per esempio, sulla città, mi viene in mente per esempio Roma, dove mi pare ci siano presenti 7-8 offerte, ce ne sono solo due a prezzo fisso, in questo caso il Trova Offerte evidenzierà solo due offerte. Se invece io ho cliccato tutte e tre le opzioni, mi farà vedere tutte e 8 le offerte presenti nel Comune di Roma. Ecco, per quello che io suggerisco magari all'inizio di chiedere tutte le tipologie di offerte, perché il consumatore così ha tutta la gamma e una scelta più ampia possibile all'inizio. Ecco, mi pare però di capire che al momento non tutte le compagnie che forniscono energia elettrica nel nostro paese hanno dato la disponibilità a presentare la propria offerta commerciale sul sito Trova Offerte dell'Autorità del Gas e dell'Energia. Al momento sono solo 12, però sono molti di più i venditori nel nostro paese, dottor Grossi. Sì, sono molti di più e va detto una cosa importante, che per poter inserire una propria offerta in questo strumento l'azienda, il venditore di energia elettrica, deve essere iscritto all'elenco venditori dell'autorità. È un'iscrizione questa volontaria, ma alla quale possono accedere solo delle aziende caratterizzate da buoni standard di affidabilità e di qualità del servizio fornito. Quindi questo è già un primo filtro. Una volta che l'azienda fa parte di questo elenco venditori, e oggi ne contiamo 72 di venditori iscritti in questo elenco, questo venditore può ulteriormente aderire anche qui in via volontaria al Trova Offerte mettendo una propria offerta o più offerte al momento disponibili sul mercato. Quindi insomma la base è volontaria, però sarebbe auspicabile che i venditori si presentino, no? Certo, sul mercato. Aggiungerei anche che lo strumento, come ha detto, è appena partito, quindi non è che le iscrizioni per mettere le offerte sono ormai chiuse, ma è un punto di partenza. Dalla settimana scorsa in avanti tutte le aziende possono via via aderire inserendo offerte, ed è quello che sta già avvenendo, perché ci sono, mi pare, almeno due se non tre ulteriori aziende che stanno in questo momento lavorando, che si sono già iscritte al Trova Offerte, ma che stanno lavorando con i propri tecnici per inserire l'offerta e renderla visibile nello strumento. Quindi è uno strumento in evoluzione che io ritengo diventerà sempre più ricco al proprio interno di offerte da presentare ai consumatori. Ci sono molte domande che i nostri ascoltatori ci stanno rivolgendo al nostro numero, al 349-238-6666. Qualcuno chiede se è possibile avere offerte con costo totale, altri ci chiedono di ridare il sito dove è possibile trovare il Trova Offerte. Il sito è quello dell'Autorità del Gas e dell'Energia. C'è un'icona che è posizionata esattamente in alto a destra nell'home page del sito, ma per chi non riesce a trovare il sito dell'autorità può scriverci al nostro indirizzo a 24 mattino e noi saremo naturalmente ben felici di dare tutte le informazioni del caso. Dottor Grossi, l'autorità esercita anche un controllo sulle offerte inserite? Allora, sicuramente fa un controllo su quello che sono le modalità di informazione con cui sono espresse le informazioni, perché, e questa è una cosa a cui tengo molto, suggerirei ai consumatori di non limitarsi a andare a vedere il prezzo complessivo, perché Trova Offerte ha due obiettivi principali, ma non unici: quello innanzitutto di evidenziare le offerte e poi di fare un calcolo della stima annua, della spesa annua prevista a partire da quelle condizioni, e quindi fa anche, come dire, una classifica di quelle che sono le convenienze, ma che sono convenienze stimate alle condizioni di oggi. Quello che suggerisco è di andare a vedere anche quali sono le altre condizioni delle offerte, in particolare le condizioni contrattuali, perché là ci potrebbe essere qualche altro aspetto che non è di prezzo, che potrebbe essere però ancora più interessante per il consumatore. Allora, questo è molto importante. Allora, ecco perché noi andiamo a vedere quelle che sono le informazioni che sono fornite dalle aziende, perché diano tutti gli elementi nel modo corretto al consumatore perché possa fare la propria scelta. E però insomma il servizio è appena partito, non mancheremo di ritornarci sopra molto volentieri e di inseguire anche gli venditori, appunto, che ancora non hanno presentato la propria offerta su questo motore di ricerca. Grazie molte ad Alberto Grossi, Autorità del Gas e dell'Energia. Buona giornata, dottor Grossi. Rossi. Grazie, a buongiorno a tutti. Alessandro. E allora, tu ritorni tra poco, come ritorna di consueto. Alle 12 a Salvadanaio, ritorniamo sull'auto. Gli incentivi hanno avuto un grande successo per il mese di marzo perché sono ritornate le vendite nel settore auto. Allora rifacciamo un po' un punto della situazione su tutti gli sconti dei quali è possibile fruire per acquistare l'auto nuova. Alle 8:32 minuti diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il terremoto in Abruzzo, spunta l'ipotesi di una tassa sui redditi superiori ai 120.000 euro per recuperare soldi per la ricostruzione, ma dal governo arriva una frenata, nulla di deciso. Resta in piedi invece l'ipotesi del 5 per 1000 difesa dal ministro dell'economia Tremonti, attaccata dall'opposizione. Accordo raggiunto tra PDL e Lega per tenere il referendum sulla legge elettorale il 14 o il 21 giugno, evitando l'accorpamento con l'Europea al 7 giugno che è osteggiato dalla Lega. Critico il presidente della Camera Fini. Sarebbe un peccato, ha detto, se per la paura di pochi il governo rinunciasse a tenere il referendum il 7 giugno spendendo centinaia di milioni che potrebbero essere risparmiati. Ancora uno sbarco di immigrati a Lampedusa, un barcone con 239 persone approdato questa mattina al porto. L'imbarcazione era stata intercettata 13 miglia a sud dell'isola. Gli immigrati sono in buone condizioni. Infine il calcio è Arsenal-Manchester United, la seconda semifinale di Champions League. L'Arsenal ieri ha battuto il Villarreal 3-0, mentre il Manchester ha vinto in trasferta 1-0 col Porto. Stasera alle 20:45 l'Udinese tenta l'impresa in Coppa UEFA nel ritorno dei quarti di finale bianconeri contro il Werder Brema. Si parte dal 3-1 per i tedeschi all'andata. E come detto alle 8:33 minuti, io ricordo il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. E insomma, la cifra è quella, 12 miliardi di euro, a meno quella che ha dato il ministro dell'Interno Maroni. Come recuperarli? Se ne sono sentite un po' tutte. L'ultima appunto è l'una tantum, l'ipotesi sui redditi oltre una certa soglia, 120.000 euro, chissà 80.000 o chissà 100.000. Prendiamo i soldi al 5 per 1000 per l'Abruzzo, prendiamo i soldi dall'8 per 1000 per l'Abruzzo, facciamo il superenalotto per l'Abruzzo, facciamo una lotteria per l'Abruzzo, mettiamo una nuova accisa sui carburanti per l'Abruzzo, il prezzo delle sigarette per l'Abruzzo, tassiamo i giochi online, diminuiamo le spese inutili magari dello Stato, insomma se ne sono sentite parecchie. Io saluto il professor Giacomo Vaciago. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei insegna politica economica alla Cattolica di Milano. Innanzitutto le chiedo provocatoriamente, ma bisogna cercare questi modi oppure uno Stato, un paese civile, potremmo dire, come una famiglia che risparmia per tempi difficili, dovrebbe già averli questi soldi da qualche parte? Beh, la domanda già suggerisce una risposta. In un paese normale l'assicurazione privata e adeguati fondi pubblici coprirebbero eventi che, ahimè, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma l'unica cosa che sappiamo è che ogni tanto ci sono terremoti in Italia che denunciano ogni volta la nostra scarsa previdenza. Siamo un paese ad alto risparmio privato e a sciupio pubblico. In altre parole, il risparmio privato è alto ma non finalizzato. Siamo un paese a poca assicurazione, la gente tiene i soldi in banca. E dall'altra parte, e quindi non abbiamo i fondi appositi per quando succedono guai. E dall'altra parte, come dicevo, ahimè, nei prossimi 10 anni, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma l'unica cosa sicura è che ce ne saranno altri. Prima o poi sì. Senta, e ma questo. Lo Stato deve per tutti avere fondi quando servono. L'idea dell'ipotesi, qualcuno l'ha detta, la tassa sui ricchi, che insomma da questo governo, quando si è sentita l'ultima volta la tassa sui ricchi, a me viene subito in mente anche i ricchi piangano, che veniva da un'area politica ben diversa magari, rispetto a questa. Il guaio è che in Italia i ricchi sono quelli che non pagano le tasse e quindi una tassa sui ricchi è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Finiamo col far pagare tasse elevate a chi non riesce a evadere, lavoratori dipendenti, pensionati, eccetera. Oggi sul Sole 24 Ore ci sono i numeri, sa quanti sono le persone che hanno un reddito superiore a 125.000 euro? Questo dai, ovviamente dalle dichiarazioni, 205.000. So purtroppo di essere in quell'elenco, non sono mai riuscito a evadere un euro. Sono 205.214, scrive oggi il Sole 24 Ore. Basta vedere quante Mercedes, BMW, Porsche ci sono in giro per sapere che non è vero. E però siamo sempre da capo. Allora, a me piacerebbe molto che in un paese civile si dicesse che sono gli evasori quelli che ricostruiscono l'Abruzzo, e li troviamo e diamo incentivi a chi li denuncia. Incominciamo, come nel caso del fumo, a manifestare avversione a chi ti danneggia. È successo in questo paese solo nel caso del fumo, che la gente ha cominciato a reagire: io sto fumando le tue sigarette e la cosa non mi piace. Bene, facciamolo anche per l'evasione. Stia attento, perché adesso stanno tra le ipotesi, appunto, mettere la nuova tassa per aumentare il prezzo delle sigarette. Tra poco arriviamo anche al 5 e all'8 per 1000, perché c'è anche un altro ospite, che è Sergio Marelli, presidente delle ONG italiane, che intanto saluto. Benvenuto, presidente. Grazie, buongiorno. Allora, prima, professor Vacciago, ancora una domanda, ecco, su questo 5 per 1000, 8 per 1000, oppure il Superenalotto, la lotteria, ma insomma sono tutte inutili, oppure, visto che lo Stato non li ha accantonati e siamo uno Stato dove non si fanno queste cose, insomma, e va bene, e questo è un dato che dobbiamo prendere per acquisito. A questo punto di vista, ora i soldi da qualche parte dobbiamo tirarli fuori, insomma. Assolutamente sì, e un minimo di solidarietà io la manterrei, proprio perché le disgrazie come i terremoti succedono a turno a tutti, è bene che la comunità nazionale sia sempre coinvolta, e quindi una qualche forma addizionale, per non sottrarre altre opere buone, un po' del 5 per 1000 di Tremonti, io lo prevederei assolutamente sì. Attenzione però che i miliardi che servono nei prossimi 5-10 anni a ricostruire l'Abruzzo non possono venire solo dalla solidarietà, che è un valore importante ma non basta. E in questo le associazioni si sono alcune anche arrabbiate, devo dire. Sergio Marelli, no, su quando è spuntata l'ipotesi 5 per 1000, ieri il ministro dell'economia Tremonti ha specificato dicendo che non si toglierà nulla al volontariato, ma si aggiungerà eventualmente, quindi si aumenterà il tetto del 5 per 1000, si darà in più per il terremoto. È una precisazione che vi sta bene, perché si è parlato di guerra tra poveri, di non togliere la solidarietà per dare ad altra solidarietà. Siete soddisfatti, insomma, di questa parziale correzione? Sì, intanto diciamo che se esserci arrabbiati è servita, almeno ad avere questa precisazione, ben vengano le arrabbiature, diciamo così. Perché appunto, senza voler far polemica, al primo annuncio del ministro Tremonti noi siamo rimasti appunto un po' basiti. Perché il problema vero è che tutti noi sappiamo che il 5 per 1000, ancora secondo l'ultima finanziaria, ha un limite massimo di spesa autorizzato che è fissato in 100 milioni di euro. Quindi già c'è stata una riduzione di un quarto per il 5 per 1000 destinato al volontariato rispetto a quanto raccolto nel 2006. Ora, se si vuole aggiungere e non togliere al volontariato, così come sembra dire oggi il ministro Tremonti, bisogna rivedere questo tetto che, ripeto, da 3 anni noi chiediamo sia rivisto, e fino ad oggi non è mai accaduto. Ma se verrà rivisto vi andrà bene? Cioè, se, come dice Tremonti, ci sarà una nuova causale per l'Abruzzo, verrà aumentato il tetto destinato al 5 per 1000, anche se poi sappiamo che ci sono talmente tanti ritardi di anni, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa proprio in questa trasmissione, per cui non ci sono ancora i fondi, credo, destinati al 5 per 1000 del 2006, non sono stati ancora girati alle associazioni, ma questo è un altro discorso. Se però viene aumentato il tetto, viene fatta una nuova causale, così vi va bene? Allora, intanto io ricordo al ministro Tremonti appunto che nel 2006 le associazioni di volontariato hanno raccolto, o meglio i cittadini hanno destinato al volontariato 328 milioni di euro, quindi 3 volte tanto l'attuale. Se si dovesse ragionare su tetti superiori a quanto noi abbiamo già incassato nel 2006, peraltro quando questa norma era nuova e quindi ancora poco conosciuta, io penso se ne potrebbe parlare, anche se il resto dell'idea che ci sarebbero altre possibilità senza andare a creare confusione, senza andare a creare meccanismi artificiosi su questa norma del 5 per 1000. Professor Vacciago, lei non so se ha seguito, un paio di giorni fa fu anche ospite alla Zanzara di Giuseppe Cruciani alla sera, questo giornalista di, credo, Trapani o Marsala, che ha fatto una rivolta su Facebook, no? Sono questi anche i mezzi di comunicazione odierni, a dire: io non do un euro per l'Abruzzo, e questa è la posizione più civile, perché proprio perché perché lo Stato avrebbe tutti gli strumenti, con tutte le tasse che ci prende, con tutte le accise dei carburanti messe negli anni, decenni anzi, per fare da sé. Perché dovrei io ancora dare un euro, fatta salva la solidarietà, ma insomma era anche una manifestazione di rabbia. Lei la condivide nel principio? Assolutamente no. Lo Stato siamo noi, come diceva un famoso sovrano francese. Non possiamo far finta, come quotidianamente facciamo, che le virtù sono individuali e familiari e i difetti sono dello Stato. Lo Stato siamo sempre noi. Ha dentro di sé anche i nostri difetti, ma allora cerchiamo di correggerli. Non andiamo in piazza con manifesti contro lo Stato inefficiente. Siamo migliori noi in ciò che abbiamo in comune, e lo Stato, che è la cosa più comune che abbiamo, pensi alla politica, cerchiamo di farla meglio, scegliere meglio i nostri rappresentanti, e poi lo Stato migliora. Quando si possono scegliere. Non accetto mai di parlare male dello Stato, proprio perché sono i miei figli, i miei nonni, siamo tutti noi. Tra l'altro si è parlato di risparmi della spesa pubblica, però è tra le ipotesi quella messa un po', cioè io ho visto un gran parlare di appunto lotto, superenalotto, accise, carburanti, benzina, è il modo più semplice insomma per fare cassa, di ridurre le spese inutili se ne è parlato ma un po' meno. Lei che spesa inutile per esempio vedrebbe che si può ridurre subito per recuperare dei soldi? Cominciamo dalle cose più inutili, dalle comunità montane alle province, cioè al passato. Però attenzione, non c'è mai un euro di spesa pubblica che non sia reddito per chi lo riceve, e quindi ci vuole un'enorme intelligenza e lungimiranza in tutta la nostra spesa pubblica, che è largamente storica e quindi è l'integrale di tutte le decisioni di spesa degli ultimi 60 anni. In tutta la nostra spesa pubblica ci sono sprechi e inefficienze, ma anche quando sai che ce n'è un 20%, non basta dire taglio il 20% e saranno gli sprechi quelli eliminati, come sta facendo l'attuale governo. Bisogna, con intelligenza, buon senso, grande buon senso e lungimiranza, fare operazioni chirurgiche, tagliare nel vivo queste spese, sono quelle superflue. Ce n'è un'infinità nella nostra spesa pubblica di sprechi, lo vediamo tutti i giorni, ma ci vuole un grande governo capace di amministrare, non di fare le leggi, di andare avanti dalle leggi in poi. Noi abbiamo ancora un governo che pensa che portare le cose in Gazzetta Ufficiale è governare. Peccato che non è vero, è dalla Gazzetta Ufficiale in giù che si governa. Sergio Marelli, la questione del 5 per 1000, c'è appunto, ci ha detto queste precisazioni che cominciano insomma a farvi vedere un po' più di luce. Devo dire che vi è costato anche questa espressione che è stata usata, la guerra tra poveri, e quanto vi è costato usarla? Molte associazioni, lei ma non solo lei, l'ha utilizzata, insomma, perché si parla di un tema molto delicato, insomma, parlare di una guerra tra poveri laddove adesso ci sono persone che hanno perso famiglie, vittime, ci sono morti, insomma. Sì, guardi, io, come dire, rivendico un po' la paternità di questa affermazione, perché appunto, come diceva il professor Vaciago, ancora una volta si pensa unicamente a ricorrere ulteriormente ai cittadini per contribuire a una calamità che si è abbattuta sul nostro paese, piuttosto che invece andare a ragionare, assumendosi la responsabilità politica di governo, di come si può ridispendere la spesa pubblica. Allora, io faccio alcuni esempi per sostanziare questa mia affermazione guerra tra i poveri. La cooperazione internazionale è stata gli aiuti ai paesi poveri, laddove succedono calamità come quelle dell'Abruzzo purtroppo quotidianamente, è stata ridotta quest'anno del 56%. Lo stesso vale per il fondo sociale, 100 milioni in meno, 30% in meno per il volontariato di servizio civile. Lo scorso anno l'8 per 1000 dello Stato è stato anche utilizzato per ripianare i bilanci dell'Alitalia. Appunto, è la guerra tra i poveri, cioè si pensa immediatamente, automaticamente sembrerebbe quasi, di attingere a quei capitoli di spesa già destinati per delle fasce vulnerabili o per delle situazioni di fragilità, per intervenire in altre situazioni vulnerabili e di fragilità. Allora, io vi ringrazio, staremo a vedere che cosa si deciderà, perché per ora sono tutte ipotesi sul campo. Ringrazio il professor Giacomo Vaciago, docente di politica economica alla Cattolica di Milano, e Sergio Marelli, che presiede le ONG italiane. Grazie, staremo a vedere. Sono arrivati tantissimi messaggi con le proposte appunto più disparate. È un tema che rimarrà, ovviamente, capire come questi 12 miliardi di euro verranno trovati. E allora, alle 8:49 minuti, come detto, il diritto alla privacy è sacrosanto per tutti, anche in Parlamento ovviamente, e c'è qualche deputato che si è detto un po' infastidito dalla invadenza di alcuni fotografi parlamentari con i loro teleobiettivi pronti a zoomare. Ci sono delle scene che sono state immortalate, insomma, nel Parlamento, le sappiamo, alcune epocali, le corna, gli insulti, la mortadella, insomma. Comunque, ci sono invece delle scene che fanno un po' più fastidio quando si va a prendere alcuni particolari, magari della giornata annoiata in Parlamento, o la deputata che si risistema il trucco, o il deputato che sta guardando su internet un sito che vuole guardare, insomma. E allora, onorevole Laura Ravetto, buongiorno. Buongiorno. Lei è del Popolo della Libertà e ha presentato un documento per dire: cari fotografi, forse esagerate un po' in Parlamento, è così? No, non è esattamente così. La mia iniziativa, che è una lettera all'ufficio di presidenza, non nasce tanto per evitare che vengano fotografati certi atteggiamenti, ma nasce per evitare che ci sia il rischio che vengano fotografati dei documenti. Le spiego. Premesso che ritengo che il diritto di registrazione delle sedute, di pubblicità delle sedute, sia un diritto fondamentale di tutti i cittadini, che devono poter assistere alle sedute del Parlamento e vedere che cosa facciamo noi parlamentari in aula e come lavoriamo, ritengo però che l'utilizzo del teleobiettivo, che è in grado di mettere a fuoco una mail, un documento su un computer, un appunto fatto in aula, sia un utilizzo che può potenzialmente violare la privacy del singolo deputato. Tant'è che questa iniziativa a mia firma, le ripeto, una lettera all'ufficio di presidenza di cui non ho investito l'aula se non chiedendo ad alcuni colleghi di cofirmarmela per dare, insomma, più forza alla cosa, nasce da un episodio a me accaduto, cioè mi trovo in aula, sì. Io mi trovo nello spicchio centrale dell'aula, le faccio una premessa altra, che i fotografi con i teleobiettivi sono tutti e soltanto posizionati alle spalle nostre dello spicchio centrale, quindi rispetto a 600 deputati, non so quanti saremo, ma non saremo credo più di una trentina, sto lavorando al computer, sto redigendo un parere per la commissione bilancio dove dovevo essere di lì a poche ore, mi giro e vedo questo enorme teleobiettivo che sicuramente non stava puntando me, che sicuramente non avrebbe pubblicato il mio documento, perché sappiamo che i fotografi devono informarsi all'etica, però che però lei il rischio l'ha visto, lei il rischio l'ha visto, dice: questi se mi prendono il documento e me lo pubblicano, ma quindi la riservatezza è la compromessa. Allora, o la mia richiesta è in questo senso: o mi si dimostra che l'utilizzo del teleobiettivo, quindi nessun divieto verso i fotografi di entrare o di fotografare, fare, si figuri, noi lo sanno tutti, le nostre sedute sono talmente pubbliche, certo, che abbiamo un canale satellitare che in TV ci manda le sedute. Ma quindi lei non vuole solo i teleobiettivi? Cioè vuole... Io voglio che si verifichi, ed mi è stato risposto dalla Presidenza che si farà un'istruttoria su questo, che si verifichi che l'utilizzo del teleobiettivo è strettamente necessario a documentare le sedute pubbliche. Secondo me no, perché con le macchine moderne si possono tranquillamente fotografare tutti, tra l'altro non c'è più il potenziale problema del pianista, perché sappiamo che con questo nuovo sistema elettronico oggi il concetto di pianista è fortunatamente un concetto non più esistente, quindi anche il dettaglio, mi si deve spiegare perché riprendere il dettaglio, ecco. Ma non lo so, voglio dire che si potrebbe aprire il discorso del perché debbano esistere anche, non vorrei utilizzare i paparazzi, questa parola, per dire, per confrontare o mettere insieme paparazzi e cronisti parlamentari, fotografi parlamentare, però c'è anche, cioè lei contesta anche questo gossip che a volte no, viene fatto? No, io non no? ho contestato questo, ritengo chiaramente, mi scusi, mi perdoni, questa è un'opinione mia personale, che sarebbe corretto nell'ambito delle sedute, far sapere ai cittadini, ecco, qual è lo svolgimento dei lavori. Detto questo, non è sicuramente un attacco ai paparazzi o a chi fa vedere anche scene di vita vera, non è questo che mi preoccupa. Mi è spiaciuto un po' vedere che la mia iniziativa da alcune testate giornalistiche è stata fatta vedere come una difesa. Non è una difesa, io ho il timore che si possa venire a conoscenza di documenti riservati. Io non credo che io debba sentirmi inibita durante le sedute nel non poter neppure prendere un appunto, perché alle spalle so che qualcuno potrebbe inquadrarlo. Ma guardi, lei ieri, quando ci siamo sentiti, abbiamo fatto l'esempio, è finito su tutti i giornali, di quello che viene definito pasticcione Bob, no? Smuggling, sì, Bob, sì, in, sì, Gran Bretagna, sì, sì. Quello, il capo dell'antiterrorismo, che scende con un documento con, esatto, i nomi di Al-Qaeda in vista, esatto, per i fondi. Senza arrivare, no, chiaramente, certo, perché... a sentire, però lì c'è anche tanto un po' importante l'attività da ritenere. Però obiettivamente, secondo me, c'è questa necessità della tutela. Sai, io non esercito più come avvocato, però sicuramente ne mantengo la deformazione professionale, e pertanto so bene che il diritto di cronaca, il diritto di pubblicità delle sedute è il diritto prevalente, però so anche che il diritto di privacy deve in qualche modo essere tutelato ove possibile. Questo sì, non scrutare, però voglio dire, lì era la dabbenaggine del capo dell'antiterrorismo che scende con un documento in vista dell'obiettivo. Ma non sappiamo come sono andati gli eventi, però sicuramente, ecco, diciamo che l'utilizzo delle cartelline è auspicabile sì, in quelle situazioni. Però in questo caso, le ripeto, uno è seduto al suo banco nell'attività normale e insomma c'è questo rischio. Detto questo, le ripeto, è un'iniziativa, diciamo, amministrativa, nel senso, sì, che ho fatto, sì, una lettera, ora sarà il vaglio di una, credo ci sia addirittura una commissione preposta, cioè all'interno dell'ufficio di presidenza ci sono delle persone che devono decidere se è stato dato l'autorizzazione a questi teleobiettivi a entrare, a immortalare. Staremo a vedere, onorevole Ravetto, noi la seguiremo in questa sua battaglia, se passa. Va bene. Diciamo che questa, insomma, è una battaglia, sì, però sappiamo che di questi tempi le battaglie parlamentari dovranno essere ben altre. Sì, ma questo sì, ma insomma qua anche in questo spazio vogliamo anche parlare di qualcosa di giustamente anche un po' più leggero, ecco, è importante. Va bene, io la ringrazio, è stata molto cortese l'onorevole Laura Ravetto del Popolo della Libertà, e con lei ci fermiamo. Ringrazio Laura Marchesi e Alessandro Marco Turni in redazione, come di consueto Carmelo Lauricella. A proposito di battaglie politiche ben più importanti, tra poco Giuliano Ferrara parliamo con l'elefante, parlerà del referendum, della tanta lunga discussione su quando fare questo referendum sulla legge elettorale. Tra poco, e noi ci ritroviamo con 24 Mattino domani.